Natale, Natalino, Natalino, sì. Prova. Attenzione, Natalino, Natalino, sì. Io ci sono, e lì, a c'è? No, io non ci sono. Che è tutto questo rumore, tutto questo rumore? Andate a nanna sulla base. Aspetta che spengo il televisore. Bene, va adesso? Sì, va bene. Quante cose strane che si sentono, che si vedono. Sotto il 25 c'è una specie di telescrivente, c'è un segnale tipo Telex sulla 25 Picture. Qua invece un po' più sopra c'è il solito segnale che cammina. Sai, diavolo, ma poi ci riesco a sapere cosa è. Si vede solo, ma non si sente, o meglio si sente quando passa, ma è troppo rapido. Io ho sentito dei tuoni tipo quelli di quei portatili famosi qua. Ah sì, ho questo, senti. Guarda. Questo? Eia, tipo quelli lì. Sì, perché certi apparecchi ce l'hanno in dotazione. Quello che ho sentito era quello là, per il Gesuio, che c'hanno quello, c'hanno anche altri programmabili, dipende, servono come passo e non servono ad altro, perché il digitale non dà quei segnali lì, perché non essendoci rumore ti dà la possibilità di far capire che ha smesso di parlare l'altro. E quindi puoi riprendere tutto lì. E allora anche le partite ci sono. Ah, non lo so, a me mi è bastata quella di ieri. Io non l'ho vista, ho visto solo il risultato, mi sto guardando un'altra cosa, perché lo sai, non sono molto, sono molto tifoso, non è che mi interessi, no, non so per niente, non mi interessa, no. Subito le 5. Non si è sentito nessuno, Flavio, non si è sentito. No, negativo, io sono in ascolto da un bel po', ma negativo. Perché c'è caldo. Oggi c'è caldo e io stamane da presto stavo provassando, per carità. Sono dovuto al mare di Berrettino e salire, perché quelle maledette cornacchie mi hanno danneggiato un'antenna, e quindi lo strumento mi ha detto bye bye, non funziona più. Certo, alla faccia. Purtroppo è così, sono dovuto salire sopra. Era tutto pieno di cose, di quegli animalacci, guarda. C'era l'ultimo pianale tutto bianco, perché se ne fanno lì, vanno lì, deve essere a bombardare. Che uccello rompipalle, guarda, ce ne sono troppe. Adesso l'ho abbassata, stasera al fresco se ce la faccio la smonto. Quanta, per la millesima volta, guarda cosa è successo. Secondo il danno, prendo e ci metto un'altra, adesso mi sono fatto. È una cosa veramente, guarda, è un ciclo continuo. Ogni 2 anni tocca pigliare una penna nuova per queste bestiacce. Ma che antenna è, verticale oppure orizzontale? No, è verticale. Antenne alte 5 metri di banda. Il fatto è, sto pensando di prenderne una anche senza radiali, solo che ho visto che si attaccano anche in mezzo, cioè anche se l'antenna è verticale, sono radiali, loro vanno e si appollaiano lì, non ho capito come facciano, si attaccano, non ho capito per quale motivo, e quindi siamo andati a collo, siamo andati a terra, no? Danno un colpo micidiale alla frusta, no? Essendo in retroresina, a lungo andare fanno oscillare l'antenna come se ci fosse un vento micidiale, perché pesano molto, sono grandi. Ogni 2 anni a cambiare un'antenna e poi lì su ti tocca salire. Ma infatti non è cosa da tutti, no? Mi sono accorto che più sto avanti più posso fare qualcosa soprattutto con queste temperature. Non ci può stare molto, perché se viene qualcosa di lì si fa come a piombo. Non c'è errore. Nonostante tutto stamane ho allentato i bulloni del tubo, c'è un tubo anche di 6 metri, no? E in più ce n'è un altro telescopico. Come l'ho appena mollato, ha fatto uno scatto, se farà due, se sceglie giù, no? Normale era sempre vincolato, però non ho sentito altro che un fischio e c'è sceso sul coso, sul basamento in cemento armato. Ha fatto un boato, c'è l'antenna dentro come si è fatta, ha pigliato un contraccolpo che è un tubo di così d'almeni, ho visto che si è anche piegato, ha fatto un boom. Sì, bello pesante deve essere la situazione. Sì, tutto l'organo si fa. Devi pensare fosse ancora vincolato, ma invece allargando i morsetti c'è sceso. Sono troppo pesanti questi. Infatti adesso lunedì stavo pensando di prendere quelli soliti, telescopici, sono più tranquilli e tutto, non sto a scendere niente con corde, con argani, eccetera. Ci metto un'antenna più piccola, tanto per quello che si usa, cosa ne fa di antenne di 5 metri o mai. C'è l'altra che va bene, e questa qua vediamo che ce ne per fare. Poi la colazione dell'antenna c'è una. Per carità, ne prendo una 3 metri e va bene lo stesso. Sì, infatti, perché poi più avanti vai con gli anni ed è un macello a salire lì, sembra Tarzan, io legando lì di fuori mi dovevi vedere, anche io le ho passate quelle cose. Lo so. No, per i poli è tutto più facile perché sono a caducola, capito? C'è un braccio che sporge dal ponteggio, no? E ho fatto delle braccia che sporgono con la carupolina, c'è la corda, per la manutenzione da sotto senza salire, sganci, scende tutto. Cioè, sono tutte autocostruite, perché sono molto molto lunghe, sono all'incirca 80 metri di cavo, quindi ce ne sono due, sono delle longwire, le butti a terra, ci sono manutenzione, controlli, e quelle se c'è qualcosa vedi subito, c'è qualche problema, ma quelle non le fanno tubo, quelle sono a prova di proiettile. Poi vedrai invece che paghi 100-150 euro una l'antenna, devi dire, ma cavolo, cioè stanno facendo delle cagate in questi anni, veramente, tu non sai a che tanto portarti, veramente, robaccia anche della Diamond, Diamond originali, lo sento sempre quelle, quel coso, certificato anche di garanzia, tutto quanto, ma mi pare che roba buona oramai non sta facendo più nessuno. Sì, infatti, chissà cosa gli è successo a quell'antenna adesso. Ho infilando, guarda, il vento non mi fa niente, invece quei colpi lì che danno quegli animali quando tentano a svirtolare il coso, no? Il basamento che è molto delicato, o dove c'è il PL, per essere esatto, anzi c'è l'N, no? C'è l'N, tu vai a vedere che trovi praticamente qualche condensatore che è andato, quello anche per qualche resto plastica a volte, oppure c'è proprio la congiunzione tra PL e riduttore che viene sottoposto a forte trazione. Il cavo purtroppo quello che c'è pesante, no? Di lì non ci puoi fare niente, il cavo pesa parecchio, sono parecchi metri, anche se tutto facettato in modo da essere autoreggente, però tra vento, colpi e chi ne ha metta è ovvio che fa con la fine. E vabbè, adesso stasera quando cala un po' il sole ci risalgo e la butto giù del tutto, adesso è a livello di cosa proviene, è troppo pericoloso. In altezza togliere 5 metri di antenna e tenerla una sulla mano, perché la devi anche svizzare, no, al piede. E infatti, ma che brutto ubi che ci abbiamo cercato. Insomma, è un po' come la bicicletta, ecco, non ci stai dietro, poi ti accorgi che in certi posti diventa sempre più arduo passarci, certi stradati che facevi prima, adesso se li fai la sera ti dolori, perché la schiena oltretanto non regge anche quella, per far pigliare botte. E così è anche mettere queste antenne, andare, salire, scendere. E poi anche per niente, infatti fai un giro di conti, dice, ma ci metto una più piccola, tanto oramai abbiamo capito che non c'è granché punti radi per raggiungere lo stesso, le differenze sono mine, per le grandi distanze, cioè i sistemi network con tutti i vari collegamenti, e quindi non sono necessarie più queste antenne alte ad altezze pericolose, e secondo quello che sbagli poi fa pericare anche. L'errore non è ammesso lì, basta inciampare un attimino di distrazione e solo, insomma, un giorno dopo. Io a me mi è successo una cosa una volta, mettendo un braccio ad un dipolo, salgo sulla scala che me l'aveva messa mio fratello, e non me la mette alla rovescio, io non me ne sono accorto, e mi si è piegata, sono caduto a testa a terra con il piede dentro la scala, meno male mi ha tenuto, se no a testa a terra sarei caduto. E di tutti i colori non succede una storia. Tu figurati che dopo c'è l'antenna, questa sto usando la Game Master, che la sta saltando, quando la sta cambiando i tubi, eccetera. Mi è venuta l'idea di metterci un ulteriore, c'è presente quel sbarre del pontellino che vanno da un punto all'altro. Ed era lungo, no? La stavo misurando. Mi è sfuggito di mano questo affare, perché non ci arrivavo, no, a metterla nell'occhiello, e la mano scende e mi sfia dalla faccia, se ti becca uno di quelli in testa guai, ti accabba all'istante. Quello di Pontigi, per me adesso non mi viene, c'è neanche il nome, no? Perché se ne fa da parte a parte del coso del ponteggio per reggere, per impedire di oscillare, no, il ponteggio. Per un pelo, guarda, mi è passata come una lama questa cosa. Ehi, già lo so, quelli che si mettono a croce, là. Sì, bravo, quello. La croce me la sta facendo in capo per un pelo. È rischioso. Poi io non voglio nessuno, intorno c'è solo lì, a volte c'è l'ingegnere capo che mi assiste, che ha anche progettato tutto. Poi stamane c'era un assistente contraria. Poi ho dovuto anche pulire perché c'era l'erba di nuovo, perché la notte scende un'umidità che volta il cibiale, si è riformata questa erba secca alta, ho dovuto prima passare la erba, tutto in giro per poter lavorare. E poi sono salito su all'ultimo piano, la scaletta, quella là tipica in ferro, no? da 6 metri, doppia scaletta, vecchiaia, ho detto qua. Sì, infatti, e quello è il brutto. Aspetta che faccio una chiamata a quell'altro vecchio lì, Sonia, forse c'è una letta. Oggi è impegnato, poi lo mangia sempre, adesso quando è in campagna sta sempre arrossendo, adesso diventa un tonno. Allora sarà nella veranda quello con i beveraggi, via la faccia nostra, cosa? E infatti è lì, per quello che siamo stata la frequenza, perché è sempre col portatile, allora si è pure scaricato. Sta sempre appresso il signore, capito? Gira le bistecche, gira i gamberoni, con la radio in mano, così è bello. Allora, si era scaricato e si è spento, non se ne è accorto, capito? È così. Caro Natalino. Domani devo pure fare il vaccino, tra l'altro. A un orario disgraziato, quasi mezzo giorno e mezzo, luna, al caldo. Sì, mamma mia. Il primo sono andato a accompagnare due persone lì. Ma guarda, il caldo che ho sofferto, perché non mi funziona l'aria condizionata, a volte parte, a volte no, chissà cosa mala sorte è. O non c'è liquido da ricaricarlo, oppure il motorino, il compressore, anche non devi accingere, cioè quello che fa il motore, è un macello, è triste. Sui condizionatori dalla mia macchina non mi posso lamentare, sono tutti efficienti, tutti, vabbè che le macchine sono tutte nuove oramai, però anche alla calda che i finestrini accendi in macchina non raffreddano. Certo, non raffreddava di nessuna delle maniere. Magari, e l'ho fatto, l'anno scorso l'ho caricata, dimmi tu, me l'hanno caricata con quel macchinario nuovo che hanno. Beh, il gas c'è, l'olio gliel'hanno messo tutto, cosa vuoi dire? Che auto è una... Aspetta, Fiat. Come? Che auto è la solita Fiat? E un appunto è Fiat. 1009 turbo diesel, ma su quella già ogni tanto ne capitavo, ma ogni tanto danni, infatti con le auto con le sbarazzate c'erano, sì, il motore buono, quello di voi, però poi danno un casino di rogne, inizia a spacciarsi tutto. Con le macchine lasciano il tempo che trovano, sì, non mi ha dato mai problemi questa macchina, adesso sta cominciando, da poco gli ho fatto fare la messa a punto. Beh, che adesso anche il filtro di dentro li cambio sempre io, quello dell'abitacolo. E sei cucuomane? Quanti soldi? Ehi, sempre glielo cambio, me lo tolgo nero quando lo devo cambiare. È bianco, però si fa nero, già ce n'è poco di roba dentro. Quello perché fumi, fumi il sigaro, fumi l'erba, fumi, poi cosa fumi? Fai anche il bracciere dentro, quando c'è freddo in quello. No, roba di fuori proprio che blocca quel filtro. Ti sto parlando di quello. Perché sei cuocuomane? Allora, è cuocuomane, sei tu mi. Sì, vabbè, lui. Buonasera, buonasera. Buonasera, ciao Luca. Ciao Luca, buonasera. C'è parecchia preparazione, c'è un macello. Oggi c'è un sacco di roba in giro. Ma io già ci ho messo lo squelci, se no attaccano a chiamare gente. No, anche io ce l'ho sempre inserito, perché se no ti fa soldi. Già di 5, quasi quasi esco un attimino a fare delle commissioni e poi salgo il settore a staccarne l'altro pezzo. Che palle, no? È una Puglia. Non so, però purtroppo bisogna farlo quando è così. Vabbè, ci sentiamo alle prossime, Gianfralli. Oh signore, vabbè, io lo stesso devo fare cosa qua e me ne vo anche io, tanto Dio Giulia non si è fatto, non si è affacciato. Stai guardando i ciclisti, quelli ci sono ancora, sì. Ah buono, non so, io l'ho spenta la televisione, quindi no. D'accordo, dai, attacchiamo. Appunto, ci sentiamo più tardi. Vado a fare queste commissioni e poi vediamo un po' cosa succede. Ok, va bene. Ciao, alle prossime Gianfra. Buon proseguo. A più tardi, ciao Luca, ciao Natalina. A dopo. Sì, ciao, ciao. Come la porta ai cani, va? Poi ci deve essere un caldo buio. Filo d'aria, Sardo, cioè tu c'hai il condizionato in casa, no Natalia? No, il ventilatore c'ho, però qua sta bene, non ce n'è questo caldo forte, si sta bene, già c'è freschetto qua. Ma domani scalda, domani, poi la prossima settimana iniziano a salire, arriveremo intorno alle 36-38. Casomai mi danno a Mario, sono dopo in tutti i libri. E allora, sta bene ormai, una passeggiata magari, in spiaggia, un ribelli a muglio. poi se stiamo buoni lo baccaglia a moglie, vai. Questo è il baccaglia. Che vuoi? A tu la chiesa la freme, baccalizzaia. Io lo so, è un macello quando si mettono che c'è propagazione. L'altro giorno non capivamo niente. Ah, tu pensa, su 45 c'era un tipo che mi stava arrivando, quasi 9.3, 9.25 era, un bel forte, da fuori, allucinante. Ehi, cantò una propagazione buona, chi sa la canzone? Cata, su 10 non capivamo nulla, perché c'era troppa propagazione all'altro giorno. Ascolta lì, ma... una frequenza dove poter ascoltare qualcosa, ce l'hai? Così, ma molte volte non so cosa fare, mi piace ascoltare a me. E ma sì, sapro qualche frequenza. Io ho quel ricevitorino piccolo, qualcosina ascolto. Capito? Vabbè, se mi dà qualche frequenza. Ma le ascolto pure io, ma in digitale. No, il digitale non senti nulla. Ciao Concetta. Ciao, Popo, male. Tu lo sai? Sì, sì. Ecco, come è Natalino e Kurt. Popo è Kurt e pure Pedisvella. Siete in tre, mico uomini, Natalino, tu e Kurt. Ci mettiamo anche a te in mezzo. Se ne vuoi andiamo, sette. Siamo quattro invece che te. Ci mettiamo a Marina pure, va bene, no? Marina, sono due donne e due uomini, siamo a posto. Ci mettiamo io, Natalino, Kurt, Lea, Marina, tu e Stella. Ogni greffa. Ogni... facciamo gli scovers. Creiamo un gruppo, gli scovers. Tutti sono gruppi, dai gruppi. Avete attivato? Contavo che c'è anche il freddo, tipo l'altra sera c'avevo freddo qua, stavo praticamente in pantaloncina, freddo nudo, era pure un freddo. Pedvella. Tu dove sei? Eia, Pedvella. E beh, Tino. Chi è? Ah, Claudio, tu sei basso, ora sei basso. Basso, perché tu basso? No, di radio, aumenta, ma che cosa, di radio, forse rimane un'altra frequenza, è abbassato. Radio, radio. Ah, no, sto usando un'altra radio, no, non è tanto. Ah, no, segnale è buono, lì al Puglia, la radio, ma non riusciamo a capire chi è. Mi sembra un altro macchino in balizzino. No, sto usando lo Yaesu col microfono normale, l'ufficio anche a Natalino. Ah, va bene allora. Ciao Cla. Io pure va bene, non è fare i buchi. Già stai bene lì in campagna, no? Ehi, è un fresco che... Beh, non sei piantato. Maria non è piantato. Pomodori, citrioli, lattughe, coso, melanzane, poi, come si chiama, le zucchine, non è piantato niente. No. Ho fatto 2, 3, 4, 5, 6 solchi di marijuana e boh. Ah, no, la vena Natalino la prima. Che ci metta due basili. Perché con uomini come voi sono io già lo so che Claudio pianta la marijuana. Allora, non manco è roba buona, capito? Già va bene. No, non ho piantato niente lui. L'ho già giovità pure fatto all'orto. Giannaggio di così che fa, faccare dai. Vabbè, Cla, ti fa un paio di succhi, poi di zucchine, monareti, frutti di zucca. Ah, giusto per voi, mica li fa. Invece proprio di Mariana ha piantato un bel, ne sono scendi un bel. Infatti ti diffida un po' a noi, un po' ai parenti, capito? Kappa, è buonosso. Adesso vediamo più avanti com'è la situazione. Ma non è bassa, no, la modulazione, già va bene. No, va bene, però non è la solita tua, quella spinta. No, beh, questo è il microfono normale, sto usando lo Yaesu. qua faccio questo stacco là? Questo c'è uno stacco come il microfono da tavolo. Il microfono da tavolo è però è normale, non è preamplificato. Ah, infatti tu bruciamo un stacco strano. Ah, ho capito, ho capito. Ah, fanno anche i microfoni normali senza essere amplificati da tavolo. Non usa più. Beh, l'MD1B8, l'MD1C8 della Yaesu, che sono uguali all'MC60, non sono amplificati, già lo sa Natalino. Vabbè, non lo sapevo. Ehi, sono uguali all'MC60, ma non sono preamplificati. Come l'MC50 della Chievo non è preamplificato, ma è da tavolo lo stesso. Ah, ho capito, ho capito. Va bene comunque, già va bene, anche questo qua, però sentirti amplificato come al solito e sentirti adesso, insomma, c'è un abisso, eh. E già se c'è un abisso, ma su due radio diversi, due, questo è un microfono normale, ti ripeto. Se mi senti in banda laterale o in FM è completamente diverso. Avanti Black, avanti Black. Cosa? Buongiorno Vincenzo, dai, salutoni, sono capito male, Vincenzo, sono da Vincenzo, ho capito bene, il nominativo. Da questa parte Lucca, Nord Sardegna, Sassari, in compagnia di Natalino, di Claudio. Avanti l'amico di Vicenza. Anche te sta arrivando bene qua, 9:20 questo passaggio mi hai fatto. Ti mando avanti amico Claudio, vediamo se lo ascolti, che c'è un antennino fatto da lui, praticamente ha usato una pedifera di Benelli. Avanti Claudio. Ciao, buonasera, non so se mi ascolti, Claudio Sparviero dalle alture delle collinette di Santo Lussurgio, cambio. Dai, aspetta che ha visto chi pompa, vedi. Ah. 4:50, no, visto si chi pompa. 4:30. Ah, 4:30, scusa. Ciao, Natali, prova a chiamarlo tu a Marcello, vai. Io sto succhiando, lasciami succhiare le due macchine, vai, ora voi. Marcello, io sono nelle alture di Santo Lussurgio, alture di Santo Lussurgio, mi ascolti, cambio. Anch'io ti ascolto abbastanza bene, non ci sono problemi. Va bene, ti lascio in compagnia di Luca, dai, che io devo fare cosa. Ciao Lugariè, che c'ho gente, se no si innandami. Ehi, ciao Cla, ci sentiamo, ciao ciao. Andare. Attento Marcello, mi ascolti ancora? 4:20 prima, adesso non ci sei più. Dove le comprate le lumache Natali? A dire il vero non lo so, le ha prese mia moglie. Ma io ce li ho un po', dai, un po' tipo, stanno meno di un chilo. Sono andato dalle 5 del mattino, 5 e un quarto erano. Adesso sono diventata alle 9 e mezza, ma non fa, non fa, le masse calde, è un casino, no, non è semplice. È molto pericoloso, è troppo caldo. Sì, già lo so. È un macello. Cazzo, appena è il periodo di lumaccone, lumache grosse, mi faccio la scorta. Che bello. Marcello, ascolti Luca da Sassari. Comunque io sto usando una boomerang, un'antenna boomerang, ce l'ho sul terrazzo, non sul tetto, come apparecchio un Galaxy Typhoon 2, no, Typhoon, non è il 2 questo, normale, e microfono normale, avanti con 10 watt circa, 10-12 watt, avanti. Sì, siamo al canale 10 normale, dai, in banda cittadina, canale 10. Sì, quando ti arrivo io con questo antennino che ti avevo citato prima, la boomerang, vediamo un po', tu mi sei arrivato adesso, segnale 9, avanti. sì, anche tu se sta arrivando, no, quasi no, la radio è buona, non c'è problema, sì, va bene, dai, ripeto, io l'antenna ce l'ho sul terrazzo, e io abito al terzo piano. Marcello, non so se mi ascolti, qua c'è un francese o un tedesco, non so, un FM. Dai, salutoni da Sardegna, alle prossime, grazie per avermi risposto, ciao, buona serata. Allora vediamo che c'è qua, Natalino C, ci cucca la 10, avanti 10. Sandrino con Tulipilo al Bacchiale, al bar, e là so tutto, già so tutto. Ora ma solo se c'è la spina si chiude a fianchi, che è 250 la spina. Infatti io prendo l'Aniken, c'è la bottiglia me la bevo, io ce la chiude a fianchi. Che già ce l'ha, ma l'altra volta quando c'erano le Santa Fe c'erano le spine. Non è manco giusto a pagare così, però vogliono che guadagnare e pagarsi il gruppo da noi, capito? Capa, mi ha promesso che adesso mi chiama, voglio vedere. Voglio così, tanto capa. Non è che gli ho preso chissà quanto, no, gli ho detto guarda, per te ti faccio 100 euro, glielo faccio, però devi fornire tutto il coso, il bordello, quella roba lì. Beh, si deve arrangiare tu. Come si dice? Lui lavora, lui vende i prezzi e da lì si paga a te. Io non è che suono, no. Io suono sì, ma li faccio musica del momento, musica latinoamericana, roba così li faccio. Ascolta a me, il coso è imparato a usarlo? Sì, già imparato, adesso piano. Già ho imparato a trattarlo. Come gli usi, tanto bravo. Per le cose, come ogni cosa, bisogna imparare. qualsiasi cosa. KS sono un po' di giorni che non lo uso per via di mancata di tempo, ma devo... devo impararlo. Beh, quando si ha tempo, come fai? Se lui mi avvisa, fai posta di Maragana, devo munirmi a farlo. Al mare? No, a casa oggi. Ah, come mai? Non è sempre invece, no? Non abbia gara di parare in sul lungo. Ma qui, io ci guida... quando sono sceso? Questa settimana niente, zero. Mi domani vado tutto il giorno. Adesso vediamo, anche noi. Non è sempre invece, no? Chi è avanti? Sei molto basso, sei. Lo senti tutto? Sì, cazzo, non lo intendo più, lo dice che intendo io. Non è detto. Poco fa questo tipo è entrato da fuori, sono arrivato 9.10, 9.15, comunque l'antenna era nuda. Guarda che funziona bene con l'antenna, non c'è niente che invidiare. Vabbè, no, che l'antenna era nuda, l'antenna è butta in terrazzo, non è andata la cabissuria. Anche io non in scia, ti do. Cazzo, cazzo. Ecco, sto cercando il cellulare, avanti, forse l'ho messo giù, aspetta 2 minuti. Lui, io vado verso le 10, vado, una cosa del genere. Io sto uscendo tra un po', dai. Io vado prima a mangiare qualcosa e poi faccio un salto. E poi da lì vado al circolo, se vuoi venire, lì in Corso Trinità, in Corso Vittorio Emanuele da... D'accordo, da di Gnigni, Costantino, che fa karaoke. Ti vado a entrare. Tu come guente, non è problema. A che ora? Io vado a mangiare, adesso non so se andare prima lì, un salto, oppure faccio al contrario, dai, non lo so. Se andare al circolo, poi magari verso le 10:30, 11, vado via da lì e vado lì in Corso Trinità. Oppure me ne rimango lì direttamente, non ci vado in Corso Trinità. Adesso vediamo, dalla Puglia. Gappa. Vabbè, vediamo un po'. Allora, mi ha detto che il circolo è in via... Corso Vittorio Emanuele, praticamente... Quella di bus, adesso non mi ricordo come si chiama. Vabbè, tu nel caso mi chiami e ti dico dove. Comunque, Corso Vittorio Emanuele, quasi a metà via, dai. Capo, ho capito, va. Anzi, appena più su della via, dai, poco più su. Io esco intorno a 9:30. E non c'è problema, anzi, fai tranquillo, già siamo lì noi nel caso. E poi ci risparmia anche, dai. Lo so, Guglia. Accudite. Uè, ciao, Tore. Allora io ti avviso a vedere dove sei, ok? No, capito, chi non mi ha visto? Ma non so cosa intendo a te, so cosa intendo a Luca. Ah. Io ti chiamo e ti chiedo dove sei, ok? Ebbene, pompetta! Mi dica tutto. Ciao, e allora come va? A 4 anni, c'è uno che stava... si manda a laterale, non c'è la M. Ma noi siamo la M e tu sei mandato a laterale. Io stavo cercando il telefono, molte volte l'ho messo da qualche parte. Certo, mi vuoi dire a ticcarlo, a ciapparlo. Ma ce l'hai adesso? Sì. Cazzo. Sta anche bene, c'è fresco anche. Sta bene. Se mi stai dicendo così, allora... Io ti chiamo a una certa ora, se come avessi vengo lì. A me lo ti metti a cantare in quest'una. Luca. Ehi, dimmi. Ma dov'è? Ehi, Luca non lo sento più, dove ti ha parlato? No, mi ha mandato un messaggio a me. Ah. Va bene, va bene. Quindi Marco lo sento. Io. Salottamelo. Sei già da qua, cosa non lo senti? Io già lo sento, lui lo senti a me. Tu cosa ne so? Un poco. Eia, ciao Luca, salutoni, ben sentito. Andiamo e andiamo, cazzo, papu. Ah, andiamo e mi, che te bu. Cosa lì era di, cosa lì era? Sì, se vuoi c'era anche Pomponio, vabbè, a qui dietro. Vabbè, c'è un paio di birrette lì a... Forse avete l'Emanuele. Bisogna vedere, ma dove stai dicendo? Dove c'aveva il ciclo Raimondo? che facevo lavoro a karaoke. Ma tu sei tesserato lì? Io no. No, a Luca. Sai cosa? Cosa anzi? Sei tesserato lì. Luca Pelvella. No, è Claudio Assassino. Luca Pelvella con la carrozzella. Claudio Cacarella. Questo è meglio parlare. Vedete che mamma. Ciao a tutti, buonasera, comunque adesso lo per un saluto. Buonasera, buonasera. Ciao Cla, buonasera anche a te. Ciao Antonio, Antonello. Capo, ma Claudio non è che hai qualche... Non è che hai quello spezzone che si attacca al limite 60, no? È rimasto qualcuno. E c'è quello? C'è presente il capo, quello che va al microfono, alla... all'apparecchio. Il capo? Capo di che cosa? Capo, capo, capo, per attaccare il microfono. Ah, ma la chiedo male adesso. No, no, questo, questo. Non capisco cos'è. Allora, ecco qua. Il capo che va alle MC60, ci sono quei due spinotti, giusto? Se ce ne hai uno in più che mi serve, e questo qua mi sta rompendo. No, no, no, no, io quello che avevo in più, gli ho cambiato la connessione praticamente e uso la MC60 con un'altra radio, capito? Capo, vai. No, pensavo che te ne è rimasto qualcuno. No, no, avevo venduto tutto, io avevo 4, 60 di tutti venduti, io lo so. Gappa, gappa. Gappa. E se vedo un capo che anda all'apparecchio e va, già lo conosci com'è, non ho bisogno che te lo dica io, no? Che c'è due connettori, quello lì mi serve. Sì, già ti ho capito, adesso non ne ho, non ne ho, non ne ho. Vabbè, che andava giù dentro, lo posso controllare. Ogni tanto da qualche bizza là. Ma il cavetto o l'MC60? Il cavetto? Sei sicuro che è il cavetto? Sì, perché quando tocco il capo poi va. I cavetti non mi hanno mai effettato. L'MC60 c'è il problema di quel tastino lì sotto, capite? No, no, no, non è... Non è quello il problema. Il problema è che... Ecco, non ti fa il tastino di sotto, perché? Cioè, quel tastino intanto si ceppa e non fa uscire la modulazione, capite? Ah, vero? Eh sì, muovere ogni tanto quel tastino che c'è sotto, avanti, indietro, avanti, indietro. No, sarà chissimo, perché ho mosso un pochettino qua e poi è ripartito. Quello è quello, non c'è niente che ha letto, non c'è niente che ha letto, ogni tanto muovere quel commutatore che c'è sotto l'MC60, che è quello lì. Ma è un piccione. L'unico difetto che fa l'MC60 è quello, altri difetti non ne fa, il cavetto è diretto, quindi no, non può mai creare problemi. Vai Antonio. Mi sono stato anche a me, cioè io pensavo che ti serviva magari un corso. Passare da con l'MC60 a un baracchino normale. Invece era il cavetto quello che stava facendo lui. E c'è lo spinotto, mi sembra che maschio o femmina dovrebbe essere. Mi sbaglio, così è.